Roberto di Varese, cambia, metti sulla zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla zanzara, vai! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Perché voi due, tu e Parenzo, state lavorando? No, tu e Parenzo, sparate minchiate, no? Non so quanto ben pagati, ma questo è un affare che non mi riguarda. E tu lo chiami lavoro, questo? Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrat. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora ragazzi, non è successo niente di particolare. Al di là della Grecia, è morto un cavallo durante le prove del Palio di Siena. La mia risposta è: chi se ne frega. Ora pare che ci siano 11.000 cretini che si sono messi su Facebook, su internet, a fare una petizione per non so che cosa: abolire il Palio di Siena, cancellare la gara, aprire un'inchiesta. I 5 Stelle, adesso signor Artini, sì, bravo. Signor Artini, adesso noi abbiamo tanti problemi in Italia. In Parlamento si possono presentare una serie di disegni di legge, oppure non si possono anche non presentare, ma perché un'interrogazione per aprire un'indagine sulla morte di un cavallo? Sono morti dal 1970, ho letto, 57 cavalli, è normale che muoiano i cavalli, muoiono gli uomini, muoiono anche i cavalli. Cioè c'è una gara ormai secolare in cui i cavalli sono sottoposti a uno stress, ogni tanto c'è qualche incidente. Beh sì, è uno stress dal punto di vista. Tu sai che io sono un fan del Palio di Siena. Ma anch'io sono un super fan, ma è normale che. Ma perché, non ho capito, non sono sottoposti a uno stress, è normale che sono sottoposti a uno stress. I cavalli sono fatti per correre. Ma appunto, uno stress positivo, uno stress perché corrono. Sono competitivi. Ma non ero critico. No, ma non dicevo a te, lo dicevo ai. No, lo dicevo a te. La parola stress non era in senso, sono stressati dalla gara. Ma è normale che sia così, stressati dal punto di vista sportivo. Ogni tanto qualcuno muore, certo. Muore un cavallo. Bravo. Ma chi se ne frega? Ce ne sono tanti di cavalli, come ci sono gli uomini, come muore un cavallo. Non rompeteci le balle con questo Palio di Siena. Allora c'è un deputato dei 5 Stelle, Artini, quello sempre dei microchip, eccetera, eccetera, che addirittura ha presentato una interrogazione parlamentare perché ci dovrebbe essere un'indagine sulla condizione dei cavalli. Dai, su. No, Bernini, scusate, no Artini, Bernini, Paolo Bernini, no, Artini è un altro. Mi confondo, Bernini, Artini. Bisogna valutare gli estremi di una denuncia per maltrattamento ed uccisione animale. Ragazzi, su. Oh, Feltri contro Francesca Barra ieri sera, qui mi rompo le balle. In onda la 7, mi rompo le balle, vengo gratis. Beh, devo andare addirittura in periferia. La 7 a Milano, non so dove sia data, non è proprio in periferia, credo che sia. Ah, sì, perché è a Cologno, credo. Vabbè, comunque. Si lamenta perché sì. Si lamenta. Beh, si lamenta perché. Sì, ma parla più a voce alta, se no non si capisce una sega. Si dai. Lamenta, di chi si lamenta? Si lamenta perché non parlava. Stai buono, non no? Parlava, ho capito, non lo fai parlare, quello si incazza. Io sono molto irritato, ve lo dico sinceramente, adesso mi interrompe lei, gentile signora, a me va benissimo, ma se mi fate una domanda mi dovete lasciare rispondere, perché io vengo qui gratis, mi rompo anche le balle a venire qui, chiaro, perché mi mandate in periferia, in più mi fate ammorbare da un signore, non so se sia musulmano o non musulmano. Ma cosa c'entra però? Questo? Mi scusi, scusa, però. E poi quando parlo io mi interrompete, sì, ma che modi sono? Ma cosa c'entra che sia musulmano? No. che sia musulmano vabbè, però non c'entra nulla. Vabbè, però prego, può finire? Prego. Finire che? Non so, ma hai fatto una domanda. Va bene, allora visto che stiamo parlando di spiagge e delle condizioni, siamo matti. Oh, Salvini contro Sciauchi. Sciauchi è il deputato del Partito Democratico. Khalid Sciauchi. Sentite che lotta, eh. Dopo aver sentito delle fesserie, allora va bene tutto, però io non... Avete votato contro una mozione che chiedeva di cambiare Dublino, Salvini, inutile che nascondi. Ma chi se ne fotte della mozione? Ma tu sei al governo da 3 anni e mezzo, abbi pazienza, vergognati un tantino. No, abbiamo cambiato le quote, cambiare Dublino mio, 40.000 persone e voi ti ho interrotto mentre intanto sparavi le tue cose, mi fai parlare? Posso? Prego, basta che non ti dà fastidio? Vabbè, cerchiamo di andare oltre un attimo anche con le cose. Che sparare cazzate si permette anche di discettare su quello che dicono gli altri. Vabbè, andiamo, i parlamentari qua ci diamo la risposta, hanno votato. Non siate sempre ragazzi, l'uno contro lascio giudicare i telespettatori. Sì. Rispetto fatto voi in Europa, avete firmato Dublino, radio, quindi siamo da capo. Domani, ragazzi, altro c'è che Dublino, domani viene fenomeno giù il mondo, cioè non c'è so il se disco interrotto, prendi la barchetta e vai in un'altra parte col tuo disco interrotto. Ma è la verità, noi stiamo cercando di abbatterla e ricostruirla da capo un questa Europa. L'Europa dell'euro, della disoccupazione. Poi c'è una frase sul Ramadan. Noi Salvini abbiamo votato a Strasburgo per cambiare il tuo trattato di Dublino, voi l'avete votato per confermarlo. Una settimana fa avete votato contro. Niente, sono sciocchetto. Scusate una cosa. Ma che cosa stai dicendo? Allora, ma toglietegli l'alcol. Aspetta un attimo. Fermatevi un attimo. Perché state facendo una pessima figura. Non puoi bere durante il Ramadan. Ma perché bisogna offendere adesso, per carità, tu dirai va bene la politica, ma perché bisogna offendere le persone sulle loro tradizioni e religioni? Questo non capisco. Vabbè, era una battuta, dai, dice non puoi bere l'alcol durante il Ramadan, non puoi bere. Non volevo neanche intervenire su questo, perché sennò sembra Parenzo contro Salvini, come se non vuole. Però ti rendi conto, no, era una battuta. Ha fatto una battuta, ti ha detto. Stai delirando, hai bevuto, non puoi bere durante il Ramadan. Sì, va bene, ma perché disprezzare le cose le credenze degli altri? Ma che disprezzare? No, è una battaglia, grande battaglia, dai. No, io dico a Salvini che io non bevo alcol, quindi ci rivedremo, magari gli offrirò un succo di frutta. Sembra. No, devi essere un po' più educato. Ma e civile, ti senti, scusami. Ti senti? Ah, sei così al naturale, peggio. Ti senti? Allora, siamo qui 800 24 00 24. Voglio ricordare a tutti che Salvini ieri ha detto qui da noi che a Milano c'è gente nuda che piscia e caga ogni angolo di strada. Sì, gente nuda che piscia. Ma tu l'hai mai vista? Caga. Gente nuda? No, devo dire la verità. Davanti no. alla sede della Lega questo succede. No, ma domandatevi perché. No, io non ho. Domandatevi. No, perché io non ho mai visto gente nuda che piscia no, e caga a Milano. Un signore molto simpatico qualche giorno fa girava nudo. Sì, ma lo so, l'hai già detto. L'hai già detto. Il problema bellissimo. L'abbiamo già detto ieri. Bellissimo. Non c'è bisogno che ti ripeti. Il bellissimo problema è che io non frequento le periferie, magari non frequento nemmeno la stazione. Probabilmente intorno alla stazione qualcuno nudo che pisce e caga c'è. Però adesso, oggettivamente, Milano non è piena di gente nuda no. che piscia e caga. Questo no. A Milano, e non solo a Milano, di gente nuda che piscia, che caga, che ne combina di tutti i colori, purtroppo è all'ordine del giorno. A proposito di gay, caro Parenzo, ti faccio sentire quello che ha detto. Ecco, io sono a favore del matrimonio, dell'adozione, come sai, tutto quello che tutto, sono a favore di tutto. Utero in affitto, sì. Matrimonio dei gay, adozione parto di bambini, tra animali, no, tutto. Quello no, no quello non no, so. Quello non dire cazzate, dai. Non lo so. Quella che vuole fare il disegno di legge sulle coppie omosessuali in Italia, la signora Cirinna, come no? Va benissimo, DDL è un esponente Cirinna del Partito Democratico, va benissimo. Simpaticissima, bravissima, una grande, tra l'altro è una di quelle che difende gli animali, un animalista a spada tratta. Ma lasciamo perdere questo. Non può sostenere però che i figli degli omosessuali, quando sono cresciuti dagli omosessuali, crescono meglio rispetto agli eterosessuali, perché questa è una puttanata, una boiata. Sentiamo questa Cirinà, perché non fatemi incazzare voi che sostenete il matrimonio gay o comunque le unioni civili, perché poi esagerate. Cosa non vuol dire? È nato due papà. Che le famiglie arcobaleno non amano i loro bambini, ma non diciamo cose che non esistono. Forse sono bambini talmente tanto desiderati, talmente tanto amati, che possono avere il contrario dell'effetto di quello che accade spesso invece nelle nostre famiglie eterosessuali, dove i nostri bambini spesso, lo dico da eterosessuale sposata, spesso sono, come dire, abbandonati alla PlayStation piuttosto che alla televisione. Ragazzi, dai, su, questi nelle coppie eterosessuali sono abbandonati davanti alla televisione, invece sono nelle coppie omosessuali, siccome sono desiderati, sono trattati meglio, educati meglio. Cirinà, dai, su, bevi de meno. Che ti devo dire? Sei romana, te lo dico in romanesco, bevi de meno. Togliete ierbino, come si dice in gergo, no? Allora, mentre il mondo sta crollando, la Grecia è sull'orlo del baratro, Mauro Corona se n'è andato in una baita sulle Dolomiti in ritiro dal mondo. Sì, Mauro? Sì. Buonasera, ma... non siete ancora vivi, sì? Noi sì. Beh, ma tu sei ancora... Non mi hanno legnato qualcuno. No, ancora no, scusa, ma mentre il mondo sta crollando, tu che cazzo sei andato a fare in una baia sulle Dolomiti, scusa? Perché ma sei andato? Guarda, ieri sono tornato dalle Isole Tremiti a fare delle chiacchiere con Harry De Luca, quindi... ho lasciato il mare per tornare ai monti, adesso sono qui tranquillo da solo. Ma da perché solo. Sei andato lì? C'è l'acqua nella baita. Perché sei andato lì, scusi, in questa baita sulle Dolomiti da solo? Perché ogni tanto i miei simili, gli uomini hanno un cattivo odore, quindi mi distacco, e anche per evitare loro il mio. Beh, il tuo è sicuramente molto forte, siccome ti lavi. Mi lavo poco, l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto, ti lavi poco, il tuo non parliamo deve essere. Parliamo di robe serie, dai. Parliamo di robe. Beh, aspetta, il Papa. C'è che l'acqua lì nella baita. In questa baia, com'è una baia? No, l'acqua devo andarmela a prendere, ed è un punto anche pericoloso per andare a prendere. L'acqua non c'è. Il letto? Il letto? Sì, c'è il letto, c'è una stufa, c'è tutto. C'ho la radio, ascolto la radio a batterie. Vabbè. Ma quanti metri è? 1500. Non c'è energia elettrica? Sì. No, l'energia elettrica c'è un gruppo elettrogeno, ma fa rumore, quindi lo accendo proprio al limite. Vabbè, adesso do il traffico, poi torniamo con Mauro Corona, dobbiamo parlare di due o tre cosine. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Allora, voglio capire da Mauro Corona, in diretta da una baita sulle Dolomiti, praticamente in ritiro da tutto, Dolomiti orientali, cosa ne pensa del Palio di Siena? Se è una follia oppure la morte di un animale è una roba normale, la morte di un cavallo? Ma che follia, è una tradizione di non so quanti secoli, non ricordo, quindi per me deve andare avanti. La morte di un cavallo, no. 30.000 bambini che muoiono di fame ogni giorno, non ci si scandalizza? Alcuni si scandalizzano, altro che. Sì. Però questi riferimenti, ma dispiace del cavallo. Vabbè, dispiace, certo. Dispiace di qualsiasi... sono incidenti, muoiono anche le persone, cadono dalle montagne, cadono sulla strada, vengono travolti, ma lì bisogna creare il caso. Il Palio di Siena per me deve andare avanti. Ma certo, assolutamente. E quindi se è morto il cavallo, pazienza. Diglielo ai pazzi ma che... guarda, io sono stato attaccato da ogni lato perché andavo a caccia per mangiare, perché cioè, questo, ecologisti e stomaco pieno, non siamo capaci tutti. Bisogna vedere come si fa a togliere il palio. No, ma a noi lo dici, con noi sfondi la porta aperta, cioè nel senso che... È chiaro che mi dispiace del cavallo, ma anche ai senesi dispiace, sono a lutto per questo. La vita, anche ai senesi, altro che, la vita succede fatta di nascite e di morti, tra le quali anche i cavalli e le galline. Poi qualcuno dice li bombano di doping, d'accordo, ma saranno un po' drogati, ma è normale che siano drogati. Ma non è vero manco per niente, ragazzi, c'è un regolamento precisissimo, te lo dico, io lo conosco bene. Si bombano anche gli atleti, i ciclisti, ha scoperto Armstrong che si è bombato. Ha vinto 70 giri di Francia, bombato. Ma tu ti sei mai drogato? Ti sei mai drogato in vita tua? No, io sono stato drogato di vino, ma non ho mai non ho avuto necessità, mi bastava l'alcol e avanzava pure. Ma ti rendi conto che il Papa va in Bolivia e pare che masticherà le foglie di coca? Cioè, le... Che male c'è? Chissà cosa mangiano i suoi subalterni. Chissà cosa prendono i cardinali, i prelati, quelle robe lì. Ma che prendono? Cosa prendono? Io non li ho visti, non posso dire niente, ma se mastica poi la coca, la foglia di coca la usavano i minatori, la usano tuttora, ti dà energia. Sì, ma non è un bel messaggio, dai, il Papa che mastica le foglie di coca. Sentite un po', andrebbe legalizzata, si eviterebbero omicidi. Quello sì. Si eviterebbe un sacco di commercio, di sfruttamento, di... Ma anche la cocaina legalizzeresti tu, Mauro? No, le droghe leggere, la coca, quella, masticare le foglie, sì. Ma guarda che recentemente in Colombia hanno detto che si dovrebbe legalizzare anche la cocaina, perché per stroncare il narcotraffico... Parliamo di qui. Guardate, è come quando ci fu il proibizionismo negli Stati Uniti, si beveva ancora di più e si faceva... Legalizzate, la roba uno se la compra se te la fa. Per cui... E sarebbe smantellato tutto quel casino di narcotraffici e di... Ma scusa, questo Papa ti piace allora, questo Papa che va a... Mi piace molto questo Papa. Ma è un... Purtroppo l'ho già detto, dedicandogli anche un libro, è molto a rischio. Ma che molto a rischio, dai, ma che vuol dire? Quel nido di serpenti che lo circondano, non lo sopportano questo Papa qui. Cioè, tu dici che è a rischio di vita, lo potrebbero ammazzare da un momento all'altro? Non dico di vita, perché sarebbe esagerato, ma li creeranno... Dei casi in cui perderà tutto il suo carisma, la sua dolcezza, lo faranno fuori moralmente. Ma lo faranno fuori moralmente, vabbè, d'accordo, ma lo faranno fuori anche dal punto di vista, cioè tenteranno di ammazzarlo, secondo te? No, fin qui no, perché però ci sono tanti Giuda, cioè anche il Fatto Quotidiano ha riportato Habemus Judam, è circondato da serpenti questo Papa, e deve stare molto attento, lo dobbiamo difendere noi. Ma è addirittura difendere noi, dai, ma che come? Dici? Sì, ma che vuol dire? Di posizione, mica andare lì a fare al posto delle guardie svizzere, con le voci. Io abolirei il papato. Ma sì, cominciamo a abolire anche i matrimoni, allora bisogna abolire le prime comunioni, tutto. Io sono stato battezzato a mia insaputa, io vorrei poter scegliermi il nome, quindi aboliamo anche il battesimo, no? Vabbè, c'è un sacco di gente che si sbatte. Ma io non volevo essere chiamato Mauro. Volevo essere chiamato, non lo so. Cosa. Vabbè, ma lo puoi fare, puoi cambiare nome tranquillamente. No, ma il marchio, diciamo, del battesimo non te lo toglie più nessuno. Invece una persona, quando arriva all'uso di ragione, 12-15 anni, io voglio essere cristiano, voglio essere battezzato. Questa è un'imposizione che a me non va, allora togliamo anche quello. Comunque, Parenzo, tu sai che Corona è un grande fan di Salvini. Voglio capire se ti piace di più. Sì, è un fan di Salvini. Una volta l'ha proposto pure per fare il ministro dell'agricoltura. Io voglio capire una cosa. Sì, ho capito. Come ma magari? Perché? Ministro con pieni poteri, però. Ma perché lo faresti? Faresti? Salvini, faresti ministro? Condivido con Salvini non certo le cose di affondare barconi, quelle robe. Ad esempio la legge Fornero, di togliere la legge Fornero, la condivido. Alcune cose Salvini Ti piacerebbe, leader dell'Italia ti piacerebbe, diciamo la verità, dai, diciamola tutta, dai. Ma dilla fino in fondo, dai. Vabbè, guarda, no, perché certe posizioni che ha non posso tollerarle. Quale, per esempio? Quindi vederlo. Beh, ad esempio quello di sui migranti, questa faccenda. Ai migranti fa benissimo, bisogna stoppare tutto, fare come la storia. Guardate, ci sarà un esodo biblico che non lo fermerà nessuno. Ma come non lo fermerà nessuno? Ma storia non la fermi con Salvini. Ma che c'entra? Se la gente ha fame, scappa. E allora dobbiamo accogliere tutti? Dobbiamo accogliere tutti? Non serve fare un piano. No, non serve fare un piano. No, bisogna aspettare e basta. Aspettare e basta. Arrenderci. Organizzare una nuova società. Tutti i paesi reagiscono. Chi col muro, chi con le barche. Si organizzano da soli. Vengono. Fra 10-15 anni non si parlerà più di queste cose. Bisogna sapere aspettare, perché è inutile fare piani bislacchi e questi vengono. Ma perché non ne prendi qualcuno? Perché non prendi qualche profugo a casa tua in montagna? Vai, fagli fare qualcosa. Ma come no? Ma non mi Pinchanto non ne abbiamo visti, ma se me lo chiedono gli do la baita tranquillamente. Se te lo chiedono ti gli dai la ma tua baita. Quelli non vanno nella baita, sì, però certo, credo. Ma quelli mi sa che non ci vanno nella tua baita, quelli ma vogliono. No, quelli vogliono palle, qui ci vogliono palle a resistere. Non so se resistono, ma quelli sono abituati a. Quelli vogliono palle. Wi-Fi, queste robe qua. Wi-Fi. Col... Non ce l'ho, no. Ecco, no, appunto, noi non vogliono il wifi, i collegamenti, telefonare, fare. Amico no, mio. Non usiamo luoghi comuni. Questo ma è così, ma che luoghi comuni? Ma qual è il non lo fermerà nessuno. No, invece lo possiamo anche fermare volendo. No, certo, no, se non ci mettiamo. Buttatemi delle bombe atomiche, no? Ma che c'entra? Ma non ci vogliono le bombe atomiche, dai. Ciao Mauro, presto. Fai? Ciao ma Mauro, presto. Fai? Ma faccio, si può fare. Certo, se uno parte dal presupposto che non si può fare nulla, che non si può fare niente, bisogna solo aspettare, bisogna solo accogliere, organizzarsi, come dice Parenzo, per la società multietnica, che peraltro c'è già, allora sicuramente ci troviamo impreparati come siamo stati fino adesso. Fermi tutti, giornale radio. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. La Zanzara. Il Papa Francesco, se mi ascolti, grazie a voi giornalisti per questa possibilità che mi avete dato, e se io celebro la messa ricordatevi che io pregherò per voi. Sì, ma dai, fatti bravi. A un certo punto ieri Parenzo è intervenuta qui alla Zanzara Cristina da Milano. Cristina da Parma. Da Parma o da Milano, regà? Dai, su. Parma o Milano? Beh, è uguale. Un'ascoltatrice, Cristina. Secondo questa ascoltatrice, essere gay è una questione di possessione, di spirito maligno. Cristina, parla, vai. Allora, io volevo parlare a proposito, esprimere una mia opinione a proposito degli omosessuali. Io non sono assolutamente d'accordo con chi dice che sono malati, con chi dice che hanno delle modificazioni del DNA e con chi dice che ci siano problemi psicologici, tanto che abbiamo bisogno di un ricovero. Secondo me è una questione di possessione. Una questione di possessione. Ha citato un professore, un tale Don Fusco. A parte che non so quale esorcista ti abbia detto una cosa del genere, che i gay sono Don Fusco, Don Pasqualino Fusco, uno dei più illustri esorcisti italiani. Allora, qui me lo segno, Don Pasqualino Fusco. Cosa dice Don Pasqualino Fusco? Don Pasqualino Fusco cita alcune fonti di disturbo, nomi, e dice che ci sono, c'è proprio uno spirito maligno più di uno che induce omosessualità. Allora, abbiamo scoperto questo Don Pasqualino Fusco, tu non ci crederai, Parenzo, ma questo Don Pasqualino Fusco ha una preghiera per ogni malattia, anche per il lesbismo, anche per l'essere gay, eccetera, eccetera. Si può guarire perché il maligno, che ha un nome preciso, ogni malattia corrisponde a un demone e questi demoni possono essere scacciati con una preghiera. E funziona? Beh, non so, secondo anche me no. La crucianite si può scacciare. No. Allora, c'è una, per esempio, ti faccio sentire, perché poi le anche alcune ci sono anche in audio. C'è una preghiera di liberazione dall'ernia, dall'acufene e dalla poliposi, perché questo è utile però. L'ernia, acufene e poliposi, ognuno di queste cose corrisponde a un demone, che ha un nome preciso. Cioè, tu dimmi, signor Don Pasqualino Fusco, lo voglio abbracciare fortissimo, senti. Preghiera, consacrazione alla Madonna. Questa preghiera non è sopportata da Adradam, demonio dell'ernia cervicale, e neanche sopportata dal demonio degli acufeni, Itrot, e neanche da Ugadran, demone della poliposi nasale. Certo, certo, certo. Preghiamo. Preghiamo. Affidamento a Maria. Cuore immacolato di Maria. Io rinnovo oggi nelle tue mani, sì, le promesse del mio battesimo. Certo. Rinuncio per sempre a Satana, certo, nemico della nostra gioia. E come no? Rinuncio ai suoi inganni, alle sue seduzioni, alle sue opere. Mi consegno interamente a Gesù. Cioè, tu ti rendi conto? Cioè, tu ti rendi conto? Questo Don Pasqualino Fusco è davvero convinto che a ogni malattia, c'è pure un quaderno intero, corrisponde un demone e può essere scacciato attraverso una preghiera particolare. Ma chi cazzo ci va da questo qua a farsi quelle cose in questo modo? Fa alleviare il dolore, beh, dai, su! Fare? Cioè, se questo fa star meglio... Allora, andiamo a Ludovico, Milano. Sì, ciao Cruciani, dimmi. Volevo dirti che circa un anno fa, quando ancora non c'era l'emergenza di tutti questi immigrati a Milano, ho trovato vicino a Foro Bonaparte, dove c'è il metro Brera, sì, quello che c'è Brera, sì, praticamente c'era uno che alla fontana che c'è lì in Foro Bonaparte si stava tranquillamente, era seduto dove c'è l'acqua che cade, che decimente contiene l'acqua, si stava lavando il culo e i genitali tranquillamente, poi si è alzato col pisello di fuori, si è rivestito, allora? Si è asciugato e tranquillamente poi si è andato come se niente fosse. Le persone che passavano ridevano oppure non facevano nulla. Invece un'altra cosa mi è successo un paio di mesi fa. Io no, però scusa, me lo dico adesso, tu ci vuoi raccontare questa cosa per confermare, come dice Salvini, che Milano è piena di gente che caga e piscia per strada? Sì, questo qua se lo dico. Ma non diciamo cazzate, cagato, dai, su. Ma ti giuro, la verità. Vabbè, ma ho capito, anch'io cazzate. Posso aver visto una volta uno che si mette a pisciare, ma non è che c'è l'invasione di gente che caga e piscia, dai. Cioè, dai, no, non è così, però, dai. Ti dico un'altra cosa, io abito a pian terreno e un giorno esco da casa e mi sono trovato una persona di colore, anziana, questo qua era seduto sulla poltrona che ho fuori casa e praticamente senza pantaloni, stavo col culo appoggiato sulla sedia, infatti non mi sono più seduto, e questo bello tranquillo dormiva appoggiato, mezzo, cioè senza pantaloni, appoggiato lì perché la sedia era pulita. Vabbè. E i suoi pantaloni erano tranquilli. E questo è Milano, ma non è che... Ma non Milano è questa, non è Milano. Ma che Milano? No, lo so, però non è così. La situazione a Milano è peggiorata. Ma sì, ma ci sarà sicuramente, come tutte le città italiane, i sindaci non fanno bene il loro mestiere, nel senso non sono attenti al decoro urbano, purtroppo è questa la realtà. Giampiero, Milano, vai, sempre Milano, vai. Sì, ciao. Mi dispiace contraddirti, ma io ho un'esperienza identica a quella dell'ascoltatore appena sentito. Ho visto in Bastione di Portavolta un musulmano, ed era un musulmano sicuramente perché è vestito con quelle palandrane lì, non poteva che essere un musulmano, allora? Di colore nero, che si è accovacciato dietro una pianta, ha cagato, si è pulito con la mano il culo e si è pulito la mano su una foglia di una pianta. Cosa vuol dire tutta sta porcheria? Scusa, posso... voi lasciate pochi secondi di tempo a chi... No, veramente ascolta. No, dipende però, come fammi, ci dice. Però fammi dire... Vai, allora, parla, che vuoi che ti dica? Cioè... Quello che voi state cercando di far passare... Ma noi non stiamo facendo... È una fotografia di una città che non esiste, perché la città vera è invasa, andate in via Benedetto Marcello o nelle zone circostanti lì alla stazione e vi rendete conto di quante cagate, che non sono di cane, sono di esseri umani che stanno lì e cagano per strada perché poveracci non hanno nulla. No, ma io ti ho detto, allora, infatti prima, Giampiero, che la cosa sicuramente è come in tutte le grandi città, che sia Milano, che sia Roma, che sia Napoli. Sì, non è, allora io posso essere d'accordo che non siano è limitata però, in alcune zone. Ma scusami, però è diverso dire è il sindaco che non fa bene il suo lavoro, perché il cittadino non dovrebbe cagare per strada. Come sai, i barboni esistono in tutti i posti del mondo. I barboni o gli homeless, quelli senza casa, cagano e pisciano dove capita. Purtroppo non ci dovrebbero essere nei loro, nelle case di riposo, quello che vuoi. Per me le strade dovrebbero essere liberate, però ci sarà sempre qualcuno che caga e piscia per strada. Ma se sia qualcuno non è un problema, ma se tu cammini per strada ti rendi conto, se tu sei a Milano e fai due passi in quelle zone lì, ti rendi conto del degrado. Ma anche che i vostri c'è. Figli allora, borghesi ben educati fuori dalle discoteche sabato sera fanno la pipì. Ma non dite cavolate, quello è vero, succede. I vostri figli borghesi e ben educati la sera fuori dalle discoteche, certo, di maleducati ce ne saranno anche quelli che interrompono. No, ma sono d'accordo, sono d'accordo. Aspetta, Giampiero, aspetta un attimo, qui comando io, non è che comandi tu, abbi pazienza. Allora, la cosa fondamentale è questa: sotto casa mia è pieno di gente, di locali italiani, giovani italiani, che la notte pisciano, cagano, non lo so, magari cagano pure, pisciano per strada dove essersi riempiti di birra, su questo non c'è dubbio. Dunque, Giampiero, a me questa cazzata, io sono, guarda, fortemente contro l'immigrazione clandestina. Vorrei stai zitto un attimo, vorrei muri, barconi fermati, l'Australia in Italia, no, stop now, com'era quella cosa là, no way. Allora, questo è chiaro, dopodiché non è che a sporcare la città ci sono solo gli extracomunitari o gli immigrati, Giampiero, perché non è così, è pieno di rompicoglioni ventenni che si gonfiano di birra e pisciano sui muri a Milano come in altre città, chiaro Giampiero? Volevo però dire una cosa, fammi arrivare a dire soltanto quello che era il fulcro del mio discorso. Questo degrado che sta continuando nell'arco del tempo ed è sempre maggiore, mi fa venire in mente una cosa: ma quali sono allora i diritti dei cittadini italiani? No, ma che vuol dire diritti? Che vuol dire come frase? Quali sono i diritti dei cittadini italiani? C'è un sindaco nelle diverse città che dovrebbe essere responsabile del decoro e dell'ordine pubblico. Se non riesce a mantenere l'ordine in una strada, è colpa sua. Ciao Antonio, Palermo, vai. Pronto? Sì, dimmi. Luciani, complimenti per la tua situazione. Vai, dimmi, non gli voglio complimenti, parla. Ti ascolto sempre, per cui è la prima volta, sono magari pure emozionato. Parla, veloce. No, volevo dire, ma questo Don Fusco, ma fa pure la preghiera per fare cadere il governo, c'è la possibilità di... No, quello è un esorcismo, non so se magari c'è pure, ma non è una mandare a casa sto Presidente del Consiglio, niente. Vedremo, dai, adesso la cercherò, vai. No, sul discorso degli immigrati clandestini o non clandestini, dico, secondo me bisognerebbe fermarli a priori, sia che abbiano i documenti per arrivare qui da noi, sia che non li abbiano. Vuol dire, scusa, non se uno viene qui per lavorare, evidentemente ci saranno delle quote decise. Il 44% degli italiani siamo disoccupati. Ho capito, ma tu lo pulisci il culo ogni tanto, andresti a pulire il culo a qualcuno? Andresti a fare il pizzettaro? Che ne so, una piccola quota di immigrati ci vorrà pure, no? Una piccola quota decisa per i mestieri che servono, una piccola quota di immigrati ci vorrà. Siccome tu il culo non lo vai a pulire alle anziane, tu ci andresti a parole. Poi voglio vedere quanti italiani andrebbero a pulire il culo, a fare i badanti o le badanti. Faccio il cameriere, lavoro molto saltuariamente, io accollerei un problema. Sì, ma non è questa cosa qui che non c'è lavoro per gli italiani invece per gli stranieri, è una follia, per me l'immigrazione deve essere controllatissima, però non diciamo stronzate, ci tolgono il lavoro, perché non è vero, pubblicità. Sì, lodato Gesù Cristo, sempre. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene... La Zanzara. È meglio che non mi incontri il tuo galoppino Cogliarenzo. Cogliarenzo? Perché? Che cos'è? Se non un enorme coglione. Allora, in questo... questi giorni di crisi greca c'è Brunetta, Renato Brunetta, Parenzo, che dice una cosa un po' particolare. Fa il tifo per Tsipras, innanzitutto, che è abbastanza curioso, ma non troppo, no? Contro l'Europa della Merkel, eccetera, eccetera. Ma questo è il gioco delle parti, no? Il gioco dei ruoli. Signor Brunetta dice anche che se noi avessimo votato all'epoca della crisi tra Berlusconi, no? E la famosa crisi dello spread, avremmo governato ancora. Se avessimo fatto la stessa cosa anche noi in quel maledetto novembre del 2011, molto probabilmente la storia del nostro paese sarebbe stata diversa. Non ci sarebbe stato certamente Monti, non ci sarebbe stato Renzi, e a governare saremmo ancora noi. Com'era la storia? Se mia nonna avesse... No? Mia nonna avesse le ruote, sarebbe un Calesse. Allora, bisogna dire una cosa, Brunetta, voi l'avete appoggiato poi Monti, non è che non l'avete appoggiato, cioè l'avete sostenuto il governo Monti, eppure alla grande, con i ministri, no? Cioè con alcuni ministri vicini, sostenendo le scelte, eccetera, eccetera. Vabbè, ma lasciamo perdere, questo fa parte della storia ormai, della storia. Oh, a proposito di gay e lesbiche, abbiamo sentito prima la Cirinnà, no? Che dice che in fin dei conti i bambini tirati su dalle famiglie omosessuali sono amati maggiormente rispetto agli altri, una puttanata pazzesca. Gentilini, ci si mette anche Gentilini oggi. Non ho nulla contro i gay e le lesbiche, ma che restino nei loro recinti. Io non posso tollerare la forma di esibizionismo e di tentativi di massacrare la famiglia naturale. Invece Giovanardi sostiene che solo lui e Gasparri difendono i gay dall'ISIS. Vuol dire Gasparri, siamo stati gli unici, per esempio, che quando in Iraq buttano gli omosessuali giù dalle torri, abbiamo protestato, ci siamo indignati, e vorrei sapere perché l'associazione gay italiana, invece di fare la polemica con Gasparri e Giovanardi, le polemiche non le fanno con i paesi dove c'è la pena di morte, dove vengono perseguitati. Allora andiamo a Milano, Giorgio, vai. Giorgio? Pronto, buonasera. Dimmi. Buonasera. Ma niente, io ho riflettuto a lungo in questi giorni ascoltandovi. Sono sempre stato di centrodestra. Devo dire che non trovo che ci siano delle barricate, cioè delle barricate preconcette. Perché quelli di centrodestra devono essere contro gli immigrati e quelli di sinistra devono essere a favore? No. Io credo che sia un sentimento, quello dell'ospitalità agli immigrati, quello del accettare che nel mondo ci siano... Ma queste sono belle parole, sono tutte parole, sono tutte parole. Chiacchiere, ci vuole una... Gli italiani non sanno quello che il governo vuole fare, perché questo governo... Scusa, sì, ma lasciamo perdere la società ricchezza avanzata, ma sono tutte parole e chiacchiere. Sì, va bene, ma questo è un dato di fatto. Il governo italiano è passato, senza avere una politica coerente, dall'idea di affondare i barconi e di invadere la Libia, di portare la guerra in Libia, fino al nulla di adesso, al nulla di adesso, allo zero, per il domani alle famose quote divise che non esiste naturalmente. Stai attento, la Lega. Io ho 64, mi scusi, sì, prego. Io ho 64 anni, ho tre figli grandi, non voglio seminare sentimenti contrari in questa maniera, cioè bisogna seminare sentimenti. Ma qui non stiamo facendo filosofia, siamo alla praticità, non ai principi, all'umanità, poveri immigrati, ma chi se ne frega di queste cose? Quelli ricchi devono aiutare quelli poveri. Ma che vuol dire? Ma cosa? Ma non vuol dire niente, quella è l'iniziativa individuale, ognuno può aiutare come vuole, cosa c'entra? Qui stiamo parlando della politica di uno Stato. Ognuno può aiutare come vuole, quelle sono parole, ognuno può aiutare come vuole. Incominciamo a essere ospitali. No, in Italia ci sono un sacco di lavori che non fa nessuno se non gli immigrati, no? Un sacco di lavori. È inutile dire che c'è il 44% di disoccupazione, gli italiani certi lavori non li vogliono fare e stanno meglio a stare. Vabbè, ma questo è un altro discorso, dai. Io, Giorgio, non ho capito qual è il punto. Il punto è che a me, stranamente mi trovo sempre d'accordo con le posizioni di Parenzo. Vabbè, non perché stranamente, non ho capito. Ci sono persone che sono d'accordo con Parenzo, con Parenzo. Perché non ho quell'inclinazione politica che a Parenzo non ho mai avuto. E tra le altre cose, l'ho sempre considerata una persona intelligente. Vabbè. No? Perché ascolto da anni. Ma scusa, ma non ho capito. Ma se io sono d'accordo nel combattere in maniera ferrea l'immigrazione clandestina, ma guarda che siete curiosi. Sospetto mi è venuto che la sua posizione sia una posizione di facciata spettacolare. Vabbè, non trovo come uno intelligente come lei possa dire le cose tipo rimandiamole a casa, non riesco a capire, cioè se lei mi dicesse facciamo una politica di aiuto. Va bene, grazie Giorgio. Giuseppe Trieste, vai. Pronto? Dimmi. Ciao Giuseppe, buonasera. Vai, dimmi. Sono speso d'accordo con te, io non sono un battitore, ma stavolta hai detto una cazzata, posso dirtela? Sì, dimmi, qual è la cazzata? Dimmi. Allora, a proposito di Don Gelli, come si chiamava quel Don che, di cui parlavi prima, quel prete che hai ridicolizzato perché... Beh, ridicolizzato mi sembra... Sulle malattie dei demoni, no? Sì, i demoni collegati alle malattie. Beh, amico mio, più di questo ti devo fare. La Chiesa ha una cultura millenaria. Don Pasqualino Fusco, sì. Allora? Ecco, Don Pasqualino a volte dice e fa cose che hanno una certa efficacia. Ora, esiste, faccio breve perché voglio essere molto pratico, un tale allievo di Freud che dice che la malattia ha lo scopo di risolvere un conflitto tra un divieto, farsi le seghe, andare a puttane, curare, eccetera, e la rimozione di questo conflitto. Questa è la malattia, ciascuno si provoca una malattia per risolvere un conflitto. Ma al popolo tu non puoi parlare di Grodek, no? Amico mio, non fare il filosofo, sono le 19:42, no, dai, su. La Chiesa ha una cultura millenaria. Ma non me ne frega niente, ma secondo me quelle sono follie, punto e basta, associare le malattie al demone e pregare per liberarsi dalle malattie, dai, su. Se uno ci vuole credere, bene, io non ci credo, preferisco le medicine, abbi pazienza. La realtà è che con questo mezzi, la gente ha un sollievo. Va bene, con le preghiere, tranquillo. Ma poi sto dicendo, non è che si guarisce, non è che la malattia è collegata ai demoni, dai, su. Ma non è collegata ai demoni, il demone è il corrispondente in psicanalisi di un conflitto, questo è il punto. Lo chiamo demone perché è il contadino della Basilicata, non puoi parlare di Grodde, che allora gli parlano dei demoni, ma è la stessa cosa, questo volevo dire. Ciao Giuseppe, ho capito. Ciao. Allora andiamo a Milano, Massimo, vai. Allora, io volevo dire che più che possessione, intanto la riterrei una ossessione verso il sesso, per quanto riguarda i gay. Ma chi? Non ho capito, Massimo. Parliamo di possessione, demoni, ma mi sembra più un'ossessione che una possessione. Un'ossessione verso... Un'ossessione verso cosa? Che ossessione è? Non ho capito. Verso il sesso. Poi la domanda era questa. La mia domanda è questa. Ma non ho capito. Secondo te i gay sono ossessionati dal sesso? Ossessionati dal sesso. Ma perché tu non potresti essere ossessionato dal sesso perché è eterosessuale? Sì. Eh? Sì. E allora? Qual è la differenza? Sì. Okay. La differenza è che sono promiscui ed è molto più facile trovarlo tra di loro. Non ho capito. È molto più facile trovarlo tra di loro. Aspetta. Che vuol dire? Ti faccio questa domanda così riusciamo a capirci. Secondo te chi sono i gay? Quelli che si innamorano tra di loro? Quelli che sono nelle piazzole di sosta? Quelli che si masturbano in bagno mentre tu stai pisciando negli autogrill? Quali sono i gay? Ma che c'entra? Ma esistono anche gli eterosessuali elenco? Che fanno cose del genere, scusami. Esistono anche i pedofili eterosessuali, esistono i porci eterosessuali, esistono gli ossessionati eterosessuali, ci sono un sacco di cliniche per malati di sesso o persone che hanno disturbi sessuali in cui non c'è questa differenza, anzi sicuramente sono più eterosessuali che gay. Qual è il punto? Non ho capito. Che c'è più promiscuità, Massimo? Sicuramente più promiscuità. Ma chi te l'ha detto? Ma tu sei malato, cioè... Ma non è vero, ma è così, e senti anche gente che è fidanzata con altri uomini, cioè gay, coppie affermate, sono comunque promiscui. Ma non è vero, comunque. Ma non è vero, ma... Massimo, non è vero. Vogliono fare le donne e poi alla fine invece non sono come le donne, perché le donne sono più fedeli, le donne sono con un ma uomo, ci vivono, poi c'è anche quella, l'eccezione c'è sempre, ok? Però loro sono un po' promiscui. Ma, perché... ma guarda che questa roba qui sulla promiscuità dei gay rispetto agli eterosessuali è veramente una stronzata. No, è vero. Ma è una stupidaggine, non è vero. La promiscuità esiste sia nel mondo eterosessuale che nel mondo omosessuale. Anzi, nel mondo omosessuale le coppie, conosco coppie solidissime, conosco coppie che hanno esattamente le stesse dinamiche di gelosie, di cose. Non è così, ti assicuro che non è così. Sono veramente pregiudizi questi qua, pregiudizi. Fermi tutti. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' di... La Zanzara. E tu non sei un uomo, Cruciano, non sei un uomo, perché non hai rispetto, non hai rispetto delle persone. Andiamo a Monza, Marco, sempre 800240024, Marco. Buonasera. Vai. Senta, due temi velocemente. Il primo sul quale forse lei è d'accordo, immigrazione. Basterebbe che lo Stato trattasse l'immigrazione esattamente come prevede lo Stato che la protezione civile tratti gli interventi nei confronti delle persone che hanno bisogno, ovvero si interviene quando si può, altrimenti si fa più danno che altro. Primo punto, cioè noi possiamo intervenire fino a che riusciamo a sostenerlo, altrimenti è inutile che interveniamo. Poi che Salvini, che personalmente appoggio su delle idee, lo esprima in un concetto un po' forte. Vabbè, poi? Ok, quindi affondando le barche, che condivido, ma ovviamente non intende con le persone. Secondo, le persone omosessuali, su quale probabilmente lei sarà meno d'accordo. Allora, massima condivisione per i loro diritti dal mio punto di vista. Poi... Io sono un papà separato con quattro figli, sì, e qui arrivo al punto. C'entra perché non condivido l'adozione da parte di coppie omosessuali sui bambini, non perché creino tutti. Vabbè, sei contrario all'adozione gay, andiamo al sodo, sì. Su, perché sei contrario? Perfetto. Sono contrario perché il bambino come persona ha bisogno di una figura maschile e una figura femminile, cosa che non potrebbe essere in nessun caso sostituita. Vabbè, ma questa gay, scusa, però qui non stiamo facendo la lezioncina, il sermone, cioè, no, stai è, dicendo non una non cosa è, di una banalità però, totale che sentiamo da anni. La banalità è il bambino ha bisogno della mamma e del papà. Benissimo, no, sei contento? No, il bambino non ha bisogno della mamma e del papà. Bambino ha bisogno di una femmina, attenzione, non è così banale, perché il bambino non ha bisogno. Ma è quello stavi dicendo, no, ha bisogno di no, cioè non è così di che banale. Cosa? Di una figura maschile e femminile, che non è la mamma e il papà. Una cosa nuova hai detto. Hai detto una cosa lei nuova. Sa, lei sa che esistono già dei bambini. No, ma al di là di questo, ha detto una cosa, cioè Marco, o mi dici una cosa originale, oppure del fatto che tu mi dici c'è bisogno di una figura maschile e femminile, ma lo sentiamo da quando c'è questo dibattito sull'adozione. Ma dimmi qualcosa di nuovo, se non è No, perché non tirano fuori nulla di nuovo, di argomenti, se non che vogliono il giocattolo, vogliono, cioè non è nulla di questo. La tutela delle persone deve essere però rivolta alla tutela del bambino. Vabbè, ho capito. E il bambino non c'è. Scusate, Raffaele da Bologna. Vabbè, senza chi se ne frega che sei separato. Che c'entra che sei separato? Scusami, spiegami. Che c'entra che sei separato? Spiegamelo. C'entra che sei separato. Benissimo. Per la divisione dei compiti tra uomo e donna e di persone che si separano e non cagano più i figli. Io mi permetto di dire, ce li ho 15 giorni al mese. Perché? Perché mi rendo conto che sia importante la figura del papà tanto quanto quella della mamma. Poi condivisibile o no, non sono un medico. Vabbè. Né un santone. Marco da Milano, vai. Marco da Milano. Buonasera, volevo inserirmi sul discorso del degrado della città metropolitana. Io abito in Corso Indipendenza, obiettivamente sì. Ho notato un degrado crescente negli ultimi anni. Io abitavo a Legnano fino a 15 anni fa ed era un'isola felice. Mi sono spostato a Milano e ho cercato in vari modi di avvicinarmi più al centro per cercare o avere la possibilità di avere... E allora che cos'è che hai notato? Che cosa hai notato? Degrado. Faccio un esempio stupido. Però se la gente nota, aspetta Lorenzo. Degrado. Se la gente nota però delle cose, noto tu non puoi sbeffeggiarle. Parenzo sbeffeggia le persone. Ma non sbeffeggio nessuno, ma trovo degrado morale. Che c'entra? Qual è il degrado morale? Degrado morale del linguaggio, del razzismo. Questo è il degrado che c'è. Degrado morale in cui tutto è lecito, non esiste più. Ma di che parli? Ma questo è l'unico degrado che io vedo. No, altro degrado. Degrado normale che purtroppo c'è dappertutto. Quello sì, sicuramente. Non è che nego che non c'è, manca il degrado. Dice, no, stazione Termini di Roma è pulita. No, fa schifo, è brutto. Ma non è che è una novità, purtroppo. Il degrado vero è quello morale. Che ma è il degrado morale che c'è. Degrado morale. Sì, ma è partito col degrado morale adesso. C'è il degrado morale della gente, non lo senti? C'è il degrado. Marco, dai, che mi stavi dicendo? Il degrado morale. Dopo si devono istruire gli immigrati. Adesso si devono istruire determinate persone che arrivano incoscienti del fattore delle regole e robe varie, perché alla fine nessuno le applica, e noi abbiamo una condizione in corso indipendenza, corso Concordia, dove deve passare la nuova metropolitana e robe varie. Dove vanno? A San Pacheco dei Poveri, il 60% di immigrati. Allora? Tutto che non hanno bisogno. Vabbè, dai, andiamo al sodo. Marco, che vuoi dire di più? Oltre a aver visto questo degrado al centro di Milano, non ho capito qual è l'altra cosa che vuoi dire. Che alla fine defecano. Defecano dove? Dove? Guardate, nei giardini dei bambini. Nei giardini, vabbè, ci saranno i barboni nei giardini che defecano. Allora, probabilmente se molti notano questa cosa, è vero che negli ultimi anni ci sarà stato un peggioramento. Ma a fine dormono sulle panchine dal mattino fino a sera. Va bene, Roberto, Imperia, vai. Buonasera, Cruciani. Buonasera, dimmi. Parenzo, una cosa. La Parenzo deve finirla di dare dei razzisti a tutte le persone che non la pensano alla sua maniera. Prima di tutto, perché nessuno ce l'ha con gli immigrati. Dipende. Io non è che tu sei razzista a caso. Dipende. No, Parenzo, tu sei razzista. Dipende. A chi non la pensa come. No, io guarda, chi la pensa. Io tante. No, è vero. Chi non la pensa come me non è un problema, mica un razzista perché non la pensa come me, ma figuriamoci, sono mica così stupido. Beh, farlo parlare, dai. Chi usa termini razzisti per me è un razzista. Vabbè, dai, Roberto, dai. No, il discorso è che uno può anche andare all'estero, trovarsi benissimo con le persone di tutto il mondo, però uno quando è in Italia e vede che comunque sono dei privilegiati, perché danno delle cose che all'italiano poveraccio, morto di fame, non gli danno non niente. Non è vero. Ma questo gli danno tutti, non è vero, Parenzo. Non è così. Gli alberghi a 30 euro a notte all'italiano, che è euro a notte per campare, questo è il problema di base, perché gli italiani sono stupidi di vedere queste cose. Ma è una menzogna, non sono soldi sottratti agli italiani, non c'entra niente. Sono soldi comunque nostri, sono soldi nostri. Ma che vuol dire? Anche quando tu vai all'ospedale perché ti sei fatto male a un appendice, e io non ci sono mai andato fino ad oggi, sono soldi miei, allora non ti devi curare con i miei soldi della tua appendice, hai capito? Ma che vuol dire? È un esempio stupido che stai facendo. No, è esattamente questo. Tu ti rompi una gamba perché sei un cretino, io non me la sono mai rotta. Vai all'ospedale e coi soldi che io anche verso per la contribuzione del sistema sanitario nazionale ti fai mettere a posto la gamba, cornuto. Roberto sta dicendo un'altra cosa. Roberto sta dicendo una cosa molto semplice che io in parte condivido, in parte no. Allora, sta dicendo che noi non possiamo continuare a fare entrare un sacco di gente. Ma cosa vuol dire sta roba? Perché dopo siamo costretti giustamente ad accoglierli, a dargli del denaro che evidentemente sottraiamo al bilancio pubblico. Questo non sta dicendo, come no? È così. No, perché sono soldi comunque destinati per questo tipo di politiche, come fa qualunque ma Stato. Ma che vuol dire? Per cui ci sono soldi destinati alla sanità, sono sempre soldi complessivi del bilancio pubblico, no? Vabbè, ma fanno parte della gestione dello Stato, cioè del nostro bene comune. Allora, è normale, va benissimo. Ma no, ma sarebbe come dire, uno non ha mai usato il servizio sanitario. Ma non c'entra niente, non c'entra. Roberto, dimmi. Ma poi... il discorso non sta in piedi, non sta in piedi, perché comunque quei soldi lì arrivano dalle nostre tasse che tutti noi paghiamo ed escono per andare a loro. Io non dico che non è giusto fare beneficenza, non è giusto quello che vogliamo, però ci sono anche tanti italiani bisognosi che nessuno caga, vengono sfrattati. Cioè, io avevo un parente che aveva bisogno di una casa popolare, uno prende una lista delle case popolari e guarda chi sono i primi nomi della lista e non sono italiani, purtroppo. Ora il parente mi dirà, ma perché non hanno reddito, ma perché... Ci credo, vengono qua e cominciano a sfornare un figlio dopo l'altro, salgono nelle classifiche per le case popolari. Un italiano con un po' di testa, se non c'hai soldi un figlio non lo fa. Loro invece vengono qua e ne sfornano tre anche se non... Ho capito Roberto. Allora, c'è Donald Trump che forse si candiderà alla, ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali americane, che è stato cacciato dalla televisione dove sospeso dalla televisione dove è il protagonista di un reality, The Apprentice, per aver detto che i messicani, sentite. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Il Messico non manda qui i suoi cittadini migliori, manda persone con molti problemi che li portano qui da noi, come droga, criminalità, stupri. Cioè, i messicani che arrivano da noi sono drogati, criminali, stupratori. Alcuni presumo siano brave persone. I messicani che arrivano da noi, drogati, spacciatori, criminali, stupratori, mandato via. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpatici. La Zanzara. Ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai senza pena per la rabbia, per quest'asso. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Trasmissione sempre la migliore. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Allora, andiamo a Taranto, Alessandro. Ecco, buonasera. Brevemente, volevo intervenire per quanto riguarda il matrimonio gay e l'ossessione degli omosessuali sul sesso. Io porto la mia testimonianza. Sono un ragazzo di 30 anni, etero, e condivido felicemente la mia casa con un amico e coinquilino omosessuale. E posso dire la verità, un altro posto sono più ossessionato dal sesso io e promiscuo io che il mio coinquilino amico. No, ma non ho capito bene, ricapitolami un attimo la situazione. Dicevo, io convivo con un amico mio, sì, che è omosessuale, però sì, io sono eterosessuale. Sì. E allora, vabbè, qual è il problema? No, non è nessun problema, volevo dire semplicemente che un altro posto sono più ossessionato io dal sesso che il mio coinquilino, quindi tutte le bagianate sull'ossessione degli omosessuali sul sesso sono cazzate, sono come dicevi tu sostanzialmente. Ma certo, cioè, ha gli stessi stimoli che hai tu, no? Ma infatti la questione è semplicemente l'ignoranza sull'argomento, in quanto comunque tutti hanno paura di ciò che non si conosce. Non ho capito, mi puoi ripetere questo concetto un attimo? Dicevo che tutti quanti poi alla fine hanno paura di quello che non si conosce, quindi si va per preconcetti, si va per linee guida e schemi mentali che ci si è fatti per tutta la vita. Va bene, grazie. Vittorio, provincia di Modena. Pronto? Sì. Madonna, due ore che sono al telefono, avete iniziato a parlare di cavalli, immigrati, eterosessuali, adesso cosa devo parlare io? Punto primo. Secondo, cambio la sigla iniziale. Ma puoi fare quello che ti pare, dai, forza. Ma non si può ascoltare. Ma che secondo, vuol dire la sigla iniziale? Allora, ma di che stai parlando? Ma di che parli? Di cosa parli? Di cosa parli? Non si può ascoltare. Ma chi lo decide? Tu? Cavallo, io lo decido, perché sono ascoltatore e tu sei quello che fa il programma. Quindi metti la sigla che voglio, appunto. Comunque non è di questo che voglio parlare. Voglio parlare assolutamente di un'altra cosa. Ma vatti a ricoverare, va. Senti. Vatti a ricoverare, sono dai. Sono capitato al Palio di Siena, c'erano i cavalli che erano pompati marci, ok? Dimmi te se è una cosa normale pompare dei cavalli così. Sì. C'erano le vene che... Vabbè, ma lo sai che ti dico, allora io non so se ci sono state inchieste, sicuro io sono quasi certo che qualcosa succede da quel punto di vista. Parenzo dice di no. Ti dico una cosa, anche se fossero bombati, anche se fossero dopati, ma chi se ne frega? E qual è il punto? Ma chi se ne frega? Si bombano tutti. Non sono mica un amico di Enrico. Ma meno di queste cose qua di ste cavolate, però cioè, mettiti nei loro panni, dimmi che è una cosa normale e non sei un razionalista come pretendi di essere o no? Un razionalista? Ma che vuol dire un razionalista? Ma hai capito cosa vuol dire? No, non ho capito niente cosa vuol dire. Non ho capito. È una persona che ragiona, va comunque al sodo, dice le cose facili. Allora? Lo scopo della trasmissione è quello di ottenere un'informazione valida e non è ipocrita come in tutte le trasmissioni che si ascoltano. No, l'hai detto tu. Se no, cosa lavori a fare? Ma lo devi dire tu per cosa lavoro a fare. Vuoi fare la sigla? Vuoi fare il programma? Vuoi fare il programma? Vuoi fare la scaletta? Come te, cerco di ragionare come ragioni te, o no? Vittorio, senti, io non so se ragioni come me e non mi interessa. Il punto fondamentale è un altro. Dici, siccome i cavalli al Palio vengono bombati tutti, io dovrei saperlo. Io non ho detto che vengono bombati tutti. Io ho detto che l'estate scorsa sono capitato al Palio di Siena e ho visto una cosa che un po' non mi è piaciuta, perché i cavalli cosa di hai visto? Male, visto? Non avevano niente. Cosa erano fuori di testa, avevo gli occhi fuori dalle orbite. Ma che occhi, ma non sa niente. E poi non me ne fregava niente gli animali. Cioè, sono problemi molto più seri in questo mondo. Solo che all'inizio della trasmissione mi avete chiamato e si parlava di quello, poi dopo un'ora avete iniziato a parlare di immigrati e tanto. Ma quelli sono affari nostri. Se ti sta bene, bene, altrimenti chiudi il telefono e non ci rompi i coglioni, capito? Questo mi pare abbastanza chiaro. Coglioni, mi sto anche divertendo un sacco. E allora, appunto. Quindi... Vabbè, ciao Vittorio, ciao. Ciao, ciao. Allora, qualche tempo fa, ricordate, c'era un animalista, una scrittrice che si chiama Isabella Santacroce, che ha scritto una lettera su Facebook, chiamiamola così. Una vera e propria lettera a Papa Francesco. L'organismo umano non ha bisogno di proteine animali. Lei, cioè il Papa, non ha speso una sola parola sull'animalicidio, su questo infame e terrificante olocausto perpetrato quotidianamente dagli esseri umani nei confronti della vita. Cioè, olocausto animale. Lei sa, si rivolge al Papa, che molte di queste multinazionali hanno creato veri e propri campi di concentramento dove la brutalità umana sugli animali è una pratica ininterrotta, cioè parla di olocausto, campi di concentramento, la vita di un animale ha lo stesso valore della vita di un essere umano. Vogliamo sentire che ne pensa del Palio di Siena, signora Isabella Santacroce? Proviamo a chiamarla, va. Pronto? Sì? Sono Parenzo, salve, buonasera. Senta, volevo capire un attimo, questa cosa del Palio di Siena, no? Il cavallo ferito, poi ammazzato perché ferito durante le prove, che ne pensa lei? Che è una terribile crudeltà, il Palio. Cioè non si dovrebbe correre il Palio di Siena, dovrebbe chiuso, abolito, per legge? Certo, potrebbero far correre gli uomini. Al posto dei cavalli. Un palio con gli uomini che corrono, con sopra i fantini. Io vado tutti gli anni a vederlo, per me è un evento straordinario. Bellissimo, una città medievale, una giostra medievale antichissima, migliaia di turisti che vengono apposta. E quindi lei ha bisogno del Medioevo per esistere? No, perché il Medioevo? I cavalli sono fatti per correre, però. I cavalli sono fatti per correre. Correre, magari liberi. Siccome lei dice. Usò il termine olocausto animale. Allora animale, vabbè, lì mi riferivo al fatto stesso che ancora c'è chi pensa un animale possa essere considerato cibo. Secondo me è assurdo parlare di olocausto animale, perché l'olocausto è stato un dramma della storia. La seconda guerra mondiale ha investito l'Europa, 6 milioni di ebrei, Zingari, allora, dissidenti politici uccisi. La vita di un animale, questo olocausto, le proporzioni. E lei mi parla di olocausto animale, ma come si fa a accostare la parola olocausto a quello animale? Vabbè, amica mia, io che non sono come lei ipocrita, scusi, lo faccio. Lei, ma no, invece, che sei di ipocrisia, dire, però. Nell'ipocrisia, ma scusi, madame, ma... allora ecco, certo, ma madame, lei fa gioco. Lei capisce? Vede, io sono uno scrittore e lei è vabbè, nulla. Adesso... ok, cosa vogliamo sì, fare? No. Una partita adesso ping scrittore. Pong? Vabbè, scrittore. Vabbè, d'accordo, scrittore, sono scrive. Scrittore, lei è nulla. Vabbè, quello pronto? Pronto? La scrittrice a comunicare. Irritante, mi ha detto il tono della mia voce. Lei è l'eco di un nulla. La scrittrice. La scrittrice dice che il mio tono è irritante. Ma pensa ad un intellettuale che dice il mio tono è irritante, sì, della voce. Perché è pregno di una che usa che la scrittrice. Ha la scrittrice che usa il termine olocausto animale, la scrittrice. La scrittrice. Certo, perché ma è certo un corno, certo. Ok, che lei che allora, è scrittrice, ora, scrittrice poi, tutto da dimostrare. Piccolo idiota, davanti a me in ginocchio, cretino. Pronto? Okay. Pronto, Parenzo? Pronto? Sì. Dimmi. Ma con chi stai parlando? No, con la Santa Croce sto parlando. C'è la Santa Croce? Sì, mi dica. Sono Cruciani, salve. Io stavo chiamando Parenzo, ma che è successo? Che c'è? Vedo un'interferenza? Che siete impazziti? Secondo lei gli esseri umani sono uguali agli animali? Certo, certo. Cioè esseri... identica cosa. Sì. E l'olocausto. Ancora oggi presente. C'è un olocausto in corso, sì. Sì, sì. Animale. Cioè, c'è una follia in corso, non un olocausto in corso. Cioè, però va bene, c'è in corso un olocausto animale. Crediamoci pure, è in corso un olocausto. Cioè stanno praticamente come per gli ebrei certo, come per gli ebrei, certo. No peggio io degli ebrei. Direi peggio, sì. Cioè oggi lei si informi oggi... perché voglio dire, ecco, lei si informi, cosa informi. Che non credo sappia fare, forse no, sono ritardato. Non stare lì e parlare non so con me adesso e farmi perdere del tempo, perché è questo che lei sta facendo in ginocchio. Oltre a irritarmi con la voce sua e quella del suo collega. Sì. Ok, no, ma mi sta facendo perdere tempo. Mi devo sentire perseguitata da due cretini di una radio. Ma chi siete voi? Chi vi ricorderà mai? Noi siamo il nulla. Chi siete voi? Siamo il nulla. Noi siamo il nulla. Perseguitata. No, scusi, che cosa volete da me? Che cosa volete sentire? No, c'è la Santa Croce. L'unica cosa che io volevo sentire veramente è se lei è convinta sul serio, al di là dell'insulto. Sono convinta sul serio. Che gli esseri, che gli animali, che gli animali abbiano gli stessi diritti degli esseri umani. Cioè per lei una capra e un uomo sono la stessa cosa. La stessa identica cosa. La stessa identica. La capra, certo. Per dire, che ne so, un culavacca. Ma non sono solo io a dirlo. No, non è solo lei. No, non è certo, non è solo. In tempi diversi da questi ed sì. È assolutamente lontani. E chi mangia i la capra? Sì, illustri chi, ne parlavano. Certo, chi nomi illustri certo non sono i vostri. No, per carità, io non voglio essere illustre, io non ho questa pretesa. Oggi chi mangia la carne è un assassino. Io ora il tempo, guardi, per me è più che terminato. È più che e terminato, quindi eh? Gentilmente ringraziando vi saluto. Com'è che ha detto a un certo punto? In ginocchio sei il nulla. In ginocchio sei il nulla. La scrittrice che parla di olocausto, la scrittrice. Stupendo, stupendo. Whatever you want. Whatever you like, whatever you say, play your mind. Pubblicità. La zanzara. Mamma mia, oh, ma per parlare con Ferrero che bisogna fare col Viperetta? Cioè, Massimo. Oh. Mamma mia, per parlare con te è un inferno qua. Cioè, veramente? Cioè, allora si chiama uno, chiama lì. Ma è il vero Ferrero? No, ma sì, è vero. Allora, chiamiamo il numero di telefono e c'è uno squillo e cade subito la linea. Ma che c'hai i cosi? Perché sto vicino a chi e c'è da Costia che mi attacca. No, ma secondo me il fatto che tu c'hai le protezioni, cioè quel numero là, il tuo numero segreto, riceve solo alcuni numeri. Cioè i pannoloni, non le protezioni. No, a proposito di pannoloni, metti un po' la bocca vicino all'auricolare, se non si sente il cazzo. Adesso com'è? Bene, perfetto, meglio. Stupendo. Allora, a proposito di pannoloni, ma t'ho visto nudo su alcune foto su Diva e Donna. T'ho visto. Sei innamorato? No, non lo so, forse la faccio vedere a qualcuno. Ma se sei innamorato, dai. Eh? No. Beh, non mi sembra un gran fisico. Vuoi svelare i tuoi segreti incosci? No, però ero attento a vedere qualche dettaglio così dei tuoi attributi. Però, ma una cosa che ti ha fatto piacere o sei incazzato per quelle foto là? Ma non me ne frega niente, questi no. Ognuno di questi deve campare. No? Ah, tu dici devono campare? Bisogna campare, no? Hai capito? Il problema è che dice che il fotografo è cascato per terra e si è rotto la macchinetta. Ma veramente? Si è spaventato, no? Si è un video. Ha visto il maschio, no? Secondo me, scusa, qualche amico in comune ci dice che invece si vedeva una piccola cosa tipo da micro dotato. Sì. No, non ma, è... infatti per la piccola cosa l'amore si posa. Comunque era il settimanale di Cairo, Diva e Donna. Allora bisogna fare qualcosa allora. Che fai? Famo una causa a Cairo. Dai, va. Se ci sente quello si spaventa. Ma che sei fatto? Quando questi c'hanno i soldi di cioccolata, quando li cacci? Ma come i soldi di cioccolata? Cairo c'ha... No, ma se metti i soldi in saccoccia si squagliano, no? No, ma Cairo c'ha i soldi veri, ma dai, su. Cairo no, no, allora hai capito il senso. No, ti fammi capire la battuta. Roma si dice... Quando uno è oculato. Ah, quando è oculato, ho capito. Oculato, pure tizio, dico come cavolo te pare. Sì. Metti i soldi in saccoccia e se squagliano, no? Prima che li tira fuori, sono cazzo. Ma tu invece come sei? Sei oculato o sei. Io sono un uomo molto generoso perché vengo dalla povertà, essendo fortunato. Sì. Io sono come Robin Hood, capito? Cioè che rubi ai ricchi per dare ai poveri. No, non rubo un cazzo, qui si sono rubati tutto. Si sono rubati tutto, sì. A proposito, no, ma... No, sai, campo e lascio campare, no? Senti una cosa, ma... I soldi sono come la circolare rossa, lo sapevi? Cioè, come so? E girano! Girano. Non sono mica mai tua, no? No, quello se sicuro. Se più lo stipendio, paghi la bolletta, fa la vecchietta che... E quella vai sotto al cuscino, devi 100 lire come nel libro mio. E girano sempre, no? I soldi mica sei noto. A proposito di libro, nell'ultimo anno, evidentemente, caro Parenzo, è un anno che ha preso la Sandora, Ferrero è diventato un personaggio. Ma che cazzo, c'ha avuto un lapso freudiano, sta ancora a pensare alle fotografie, quindi. Sto a pensare alle fotografie, sì. Ha scritto... Interesserà poco i presenti, ma io vado sempre al suo cinema lì a Piazza Cavour. Ma chi è questo signore che parla così? Parenzo si chiama Parenzo. Ma è... Parenzo, ah, Parenzo, sì. Ah, allora ce l'avevi con lui, non era un lapso. No, ce l'avevo con lui sul serio, sì. Cioè. Maestro. Pardon, madame. Parenzo, ciao Parenzo. Madame. Ciao caro. Dice che va sempre alle tue sale cinematografiche. Sì, quelle... perché abito lì vicino. Quelle a Via Cavour, vabbè, sti cazzi. Piazza paga Cavour. O no? Bah, purtroppo pago sì. Tu... No, tutte le volte pago. Da giornalista cerca di imbucarsi con la testa da giornalista. Ma che pago tutte le volte? Secondo me si imbuca, oh. Ma che me imbuco? Ma c'è mai un cazzo di posto per cinema? Ma questo si imbuca. Ma che me imbuco lì ogni volta una fila pazzesca. Chiami, no, adesso lasciatelo dire. Chiamo al telefono, no? Intanto per prenotare, dico salve, sei sempre occupato, la linea che non risponde. Il segreto c'è la folla, no? Che folla. Mi sa che non funziona cazzo là per prenotare il telefono. Dai. Ma c'è la folla, no? Tutti vanno a prenotare perché ogni anno nessuno fa la fila, capito? Vabbè, allora Ferrero è diventato talmente un personaggio che adesso è uscita pure la biografia, scritta dal mio amico Alessandro Alciato di Sky, Una vita al massimo, con Ferrero che si tappa la bocca con la mano e con un anello, che non gli ho visto l'ultima volta che ci siamo incontrati. Voglio subito domandare... Perché mi hanno rubato? Ti hanno rubato pure quello. Senti una cosa, io voglio capire una cosa. Vogliamo rispondere adesso per un attimo seriamente a questa cosa della gazzetta? Perché fino adesso che abbiamo fatto? Vabbè, fino adesso abbiamo cazzeggiato, ma insomma, succede. Ma chi ha detto che il cazzeggio non è serietà? Ah, ma infatti io quello stavo dicendo. Stavo aggiungendo che il cazzeggio è qualche volta è più importante della serietà. Pulcinella, te lo ricordi? Dice cazzeggiando. La grande commedia dell'arte, se vogliamo, il grande teatro. Cazzeggiando, si mette all'ombra e andava in giro ballando. Senti, ma vogliamo rispondere alla Gazzetta dello Sport che ti ha fatto questa inchiesta in cui sostanzialmente si dice che tu non hai messo una lira nella Sandoria e fino adesso i soldi ha messi solo Garrone? Però dici che sono stato bravo, no? Cioè, sei stato bravo a fregare Garrone col contratto? No. A fare che cosa? A fa che? Fregà è una parolaccia. No, fregà tra virgolette. Allora, cioè, ma no, è una parolaccia perché non è che stava parlando un signore molto intelligente sì. che c'ha un impero, per cui è difficile quelli che c'ha tutti questi soldi si fanno fregare, no? Cioè non è che arriva Ferrero e quello arriva poi Gonzo. Sarebbe facile, no? Allora sarebbero tutti a fregare. Questo, ho detto, questi c'hanno i soldi di cioccolata. Sono gente seria che lavora. La gazzetta che ha fatto? Ha fatto un errore di sbaglio, secondo me. Però devono dire qualche cosa. Quando non ci sono le partite... E allora chi dice adesso che facciamo? Non c'è niente da fare, dopo riempire questa pagina, chi compra il giornale se scrivo per chi? Se scrivo per Cruciani, tutti comprano il giornale, no? Se scrivono per amico tuo lì, come si chiama, Parenzo, e che cazzo compra il giornale? E allora? Perciò hanno fatto un articolo su di me dicendo delle maldicenze, che poi ti devo dire la verità, perché me lo fa incazzare, no? Ma ci sono riusciti. Perché quell'articolo, come direbbe mia madre, mi sta a far segno della croce, non è di me né di te. Cioè? Perché che cosa dice quell'articolo? Niente. Dice che io ho messo, hanno copiato, hanno fatto come D'Agostino, no? Cioè? Certo, copia qualche giornale. Copia gli articoli che escono. Copia articoli e ci mette qualche cazzata, no? Cioè, per cui sono tutte cazzate quelle che hanno scritto. Hanno copiato l'articolo, se l'avete visto, del Sole 24 Ore, no? Che No, che cazzo è? No, Milano Finanza. Sì, Milano Finanza. Sì, ormai diventò Milano Fidanza. E allora? hanno preso quell'articolo? Non compra più nessuno, adesso che hanno ridotto pure il coso. Hanno ricopiato questo articolo, che l'articolo dice? Allora, prima dice che ci ho messo i soldi. Poi dice che se non ho i soldi, vado da Carone e mi faccio da. Sì. Poi dice che c'è stato un buco di 24 milioni che hanno copiato un bilancio di 2 anni fa. Sì. Però dice pure che Garrone ha ripianato questo buco. Ma insomma. Che cazzo ha detto questo? Ma che ha detto? Allora, la Gazzetta ha scritto tutte cazzate, questa è la tua risposta. La Gazzetta ha copiato un cazzaro. Sì. Genoano. Sì. Un cazzaro genoano, sì. E ha ricopiato sta roba che ha detto come si chiama sto cazzaro genoano? Montanari là, montagna, uno di Milano Fidanza. Vabbè, comunque, ma tu allora vogliamo fare un punto definitivo, poi mandiamo il traffico. Quanti soldi ci hai messo fino adesso in questa Sampdoria? Dimmi una cifra. Come ti dico una cifra? Dimmi una cifra, i soldi che fino adesso hai messo nella Sampdoria. Quanto hai investito? Quanto hai investito? E basta che te leggi tutte le carte, voi. Ma che no? Me leggo, io che mica c'ho tempo da perdere. Appena sei entrato un quindicino. Un quindicino appena sei entrato? Certo, Fabio, ha fatto un aumento di capitale, lo sanno tutti. Ma quelli sono soldi tuoi che hai messo o no? Sono soldi dei Garrone? No, sono i tuoi. Ma i miei no, di certo, guarda. hai messo quindi... Allora, diciamo una cosa. Parlando serio, no? Allora, non è che io ho la benzina, però mio padre mi ha insegnato che non bisogna essere ricchi, bisogna essere credibili. Sì. E io ho tanto credito, perché? Perché sempre quando chiedo dei denari, che non è vero che le banche non prestano i soldi, quando tu c'hai un progetto serio e restituisci, le banche ti seguono. Punto. E dunque, fino adesso hai messo una quindicina quando sei entrato e poi? Ma se voi vedete, c'è stato un aumento di capitale di 15 milioni, la Sampdoria è stata pagata a 1 euro, no? E poi sono subentrato da quando sei subentrato, quanti soldi hai messo? Così mettiamo un punto definitivo. Ma non puoi dirlo, perché ho comprato anche i calciatori, ho comprato anche cose, mo mica c'ho la penna, mo potevi dire che mi dici questa domanda. Ma no, ma che te dicevo? Fermo tutto, che c'è il traffico, 2 secondi, resta lì, poi altri 5 minuti, Una cosa controtendenza. Viva il traffico! Viva il traffico, perché c'ha una voce sexy! La Zanzara. Allora, siamo con il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, qui alla Zanzara. Voglio chiedere subito a Ferrero una cosa, ma adesso parlando un po' delle cose più attuali del calcio, ma tu, a uno come Pulvirenti, che dice che pare che abbia confessato di essersi comprato le partite a 100.000 euro, a botte di 100.000 euro, a parte che non pensavo che le partite costassero così poco, comprasse le partite, ma comunque vabbè, ma che faresti? Butteresti la chiave? Che faresti? No, questa è una domanda molto seria e rispondo con testa, cuore e come sono andato io. Nella vita bisogna essere seri. Questo signore io non lo conosco, Però questo signore deve essere radiato dal calcio, perché il calcio è sport. Certo. Il calcio stiamo cercando di fare, non c'è, di portare le famiglie, di vedere, ti diverti, emozione. E come cazzo si permette questo a fare queste cose? Deve essere radiato. No, ma questo radiato. C'ha, su questo c'ha ragione Ferrero. Cioè, ma... radiato, io non voglio sapere questo discorso. A me mi fanno schifo questa gente. Perché non cerchiamo di non sporcare la cosa più bella del mondo. Cioè uno che dice... è rimasto solo questo. La domenica andiamo allo stadio a vedere questi gladiatori che giocano a pallone. Ma non voglio manco sapere, mi fa schifo, guarda. No, mi ma... fa ribrezzo. Uno che ha convinto... No, suoi... non deve proprio buttare la chiave, non deve proprio... deve morire finito, deve morire... proprio non deve esistere. Devono fare delle regole, delle regole... che questa roba non deve esistere, perché deve essere radiato lui, il campo, la squadra, i tutti, perché non è possibile, c'ha ragione. Non si tratta di esordi qui, si tratta proprio di essere della gentaccia. Sì, punto è questo, ragazzi, ma uno che per salvarsi e poi non alla fine... esiste, deve morire, non si deve salvare più nessuno, perché... ma che cazzo? Di che mi fate incazzare quando mi viene la pelle d'oca a me? No, ma è beh, giusto io che ti incazzi. Io amo il calcio, io sto facendo una guerra per fare aprire porta aperta allo stadio, perché fanno vedere solo le scene di violenza. E poi arriva uno, ragazzi, che si vende... Dopo riportare famiglia e andate a vedere una partita in Inghilterra. E poi arriva uno e si vende le partite. Come si permette? Questo dovrebbe prendere tutti i giorni in schiaffi. Ma no, tutti. Senti Massimo, tutti. Ma ti chiedo una cosa, tu e Lotito ti ha mai consigliato una maga? Adesso ti faccio calmare un attimo scherzando. Ma io non so che bordi sta cosa e non permetto, lo sanno. Quando ti consigliano qualcosa, non ho capito che cazzarola hai detto. No, Lotito, ma lo sanno dove devono andare, lì a me lo sanno che la mia onestà, perché io da ragazzino legge del libro. Sì. Legge del libro. Mo leggo, non te preoccupare. Legge del libro. E il libro devi leggere. Io da ragazzino ho 8 anni che lavoro. Ho sempre lavorato. Adesso tutti quanti stanno a cercare di fare, perché non so il figlio del Conte Max, non posso avere una squadra di calcio. Non posso vincere. Ci hanno provato pure a me a mandarmi in Europa. Questo è un mondo dei cialtroni. Senti un po', lo dice Ferrero. Massimo, perché chi lavora viene indicato male. Io non sono un Conte Max, sono Massimo Ferrero, sono uno del popolo e voglio l'onestà intellettuale. La gente deve andare a lavorare. Ma di chi stai a parlare? Molti chiacchierano. Tutti che piangono addosso e poi fanno infami e impicci. Ma anche tu, a me lo dito non mi consiglia niente, non è all'altezza di consigliarmi niente a nessuno. Consigliami te qualche cosa, se posso andare più a bere un peschereccio, che così mi vado a comprare un po' di pesce a meno sordi. Va. Aspetta che c'ho la pubblicità ancora, poi torno. Aspetta. Un'altra volta te saluti. No, aspetta, più. 2 secondi. Vabbè, Massimo, aspetta. Adesso ci siamo scaldati. Ma vedo che non più sordi qui. Ho capito, ma è che poi pia sempre sordi. Ma che ne pia mai, caccio sempre. Dai, un attimo. Un attimo solo, fammi fare la pubblicità un attimo, dai, poi ti voglio chiedere una cosa più divertente, sennò poi te incazzi, tutte cose divertenti, aspetta. Ti sei innamorato. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Questo è un mondo dei cialtroni, lo dice Ferrero. Ho visto le tue foto sul giornale, col pisello in bella mostra, ma non si vede niente, ma dove sta? Presidente, ando sta? Ando è finito? Presidente, ma chi è finito? Ma non si vede niente, ando l'hai messo? Ma sono venuto. E che hai fatto? Non sento niente, parla, spiaccica qualche parola, e dai, Ma ti sei innamorato o ti sei spaventato? No, non si vede niente, che spaventato. Se stavo spaventato avrei visto qualche cosa. Ma quando si vede niente. Allora ti sei innamorato. Allora per fatto il talento di ingrandimento. Ma se non ce vuole, ma vede qualcosa. Ma ce l'hai o non ce l'hai? Perché non si vede, eh? Ma che stai lì? Ma ce l'hai gli occhiali? Ma che l'hai mostrato pure a sinistra? Ma guarda che era Crozza, eh? Oh, t'ho messo il collegamento Crozza, eh? Vai, grande Crozza, senti. No, ti volevo dire che prima non ho capito una cosa e te la dico perché mi sembra giusto dirla. Dimmi. Ma come lo dite, è una brava persona per quello che mi riguarda, però ma perché mettono in mezzo sempre? Perché fanno notizia, non capisco. Cioè lo mettono in mezzo, dici? Lo mettono in mezzo per niente? Ma che c'entra adesso lo dico? Ma che ne so, avrebbe parlato con... Dite uno solo che dovrebbe fa solo delle leggi che non stanno bene alla gente e lavora troppo e si fida di tutti, non lo so perché parla troppo, se facesse un po' più dei cavoli sua forse... Sarebbe meno. Ma è sei mesi che parla, da quando è successa quella cosa con le telefonate registrate là. Ma io poi tutte queste cose sono nuove del calcio, io non conosco nessuno. Io ti posso dire che quello mi riguarda, lo dico a bravi. Ma non dovrebbe lasciare tutti gli altri incarichi che ha, fa solo il presidente e basta, che è la federazione, eccetera. Non dovrebbe lasciare tutta sta roba. Ma quello io dovrei chiedere a lui, che ne so, io manco so che incarichi c'ha. E Conte dovrebbe andare via dalla nazionale dopo quello che è stato rinviato a quella è un'altra cosa, no? Ma che dobbiamo fare? Questo qui che ha fatto? Io non lo so, non me ne intendo, no? Ma è stato rinviato a giugno. Allora, qui ci sarebbe da vedere le carte, perché io mica me ne intendo che ha fatto sto Conte. E io sono un tifoso italiano, non me ne intendo tutte. Cioè tu vuoi che resta la nazionale, cioè non si dovrebbe. Ma dice che è una cosa fatta dei 2-3 anni fa, no? Sì, vabbè, che c'entra questo? E come che c'entra? Beh, è sbagliato tutto, no? Beh, cose due. Se questo ha fatto qualche cosa, devono passare 3 anni. Se ha fatto qualche cosa, basta. Glielo dice e chiudi, no? Sì, vabbè, mo adesso inizia. L'hanno rinviato a giudizio. Lui ha sempre detto che se fosse stato rinviato a giudizio, può darsi pure che si dimetteva. Vabbè, vediamo adesso come va a finire. Vabbè, adesso chiamano e domani dico che fai? Ti dimetti? A me che può chiedere a me. Senti, ma faresti fare un film a Crozza? Io lo amo, Crozza. Vedo le palle volanti. Come fa? Oh, Crozza fa ridere. Se si piega un altro pochetto, va per terra, ti sta attento. Ah, se si piega a fa Ferrero, ma tu non sei così curvo poi. Cioè... Ah, poi, ma vedete che io vengo bene così, no? Lo sai quale sarebbe lo scoop? Quale sarebbe? Che Ferrero fa Crozza e Crozza fa Ferrero. Beh, quello sarebbe eccezionale. Ma fai e fa un film, detto, no? No, lui quando fa sta cosa, Starzano si ha fatti, da fa. Ma fa sicuro perché curve. Ma io entro dentro, no? Io imbocco dentro, capito? E io canto, capito? Vedo l'uccelli di Ferrero che sta volati via. Com'è? Pensa se fosse stato in onda. La Radio 24, signori che state in macchina, che state popicciando, che state ascoltando, sì, con il signor Cruciani. E questo è Massimo Ferrero. Questo è Massimo Ferrero. Io sto a Crozza. Ma dove stai? Io sto a Crozza, non Crozza. Ma perché non gli fai fan film a chi? A Crozza, fagli fan film, no? E bisogna dare i soldi a qualcun altro. Chi mi deve dare? Ma sempre, allora, ma come sei un produttore? Devi metterli te i soldi, devi cacciare i soldi. Io sono messi sempre di mamma Lucchi. Hai capito? Sempre. Dimmi un po' che sei stato pure condannato a cosa. Qualcuno mi dice chiedi della condanna per bancarotta. Che è la gente qua che mi scrive, chiedi della condanna per la vicenda della Livingston là. Che vuoi dire? Io che sono stato in cutine, non martello, a quello che te lo chiede. Cioè? Dielo. Che vuol dire? Io sono stato sono vittima di questo sistema. No, chiedi, che cazzo chiedi, che saluto, chiedete. E chiedo qua, è una vicenda vecchia. Qua mi volete... Che cosa volete dirmi? Ditemi. Ma no, che... ma non, io non me ne frega. Girate intorno a sta cosa che è una roba di 2009. No, hai capito com'è? Vabbè, ho capito. No, ma è la gente che scrive, che ascolta. La gente cosa scrive? Scrive. Guarda, c'è uno qui che ha scritto le cose che gli raccontate voi. No. Ma anche noi, sono SMS che SMS. Vabbè, ma chi se ne frega? Non voglio fare polemiche, non me ne frega niente. SMS. Però Massimo, ti posso invece salutare il mio amico Dino Giarrusso delle Iene? Che mi scrive. Sì. Quello è un altro stupido. Ma come un altro stupido? No. Ma che stupido? Quello glielo fa proprio in diretta, no? Ecco, io dico in diretta che ci sta ascoltando. Diglielo te in diretta, ci sta ascoltando, diglielo. Allora io gli dico che quello lì poteva fare un servizio con me come ne pare, senza che mi scorre appresso, perché ho sempre sotto 8-9 volte, no? Ma mi ha beccato. Lo so. Mi chiamava, facciamo una cosa normale, no? Io non ho niente da... Ricordatevi, signori di Radio 24, niente fare, paura non avere. Vabbè. Questo diciamo i nonni, perciò non dite niente. È sempre valida, è sempre valida. Ma non far paura non avere, comunque vabbè. Allora che io dia a Dino, che io dico? Che io voglio bene, perché capito, sono contento che hanno preso a lavorare, perché... perché era morto la tosta di pane, però... però non può far... Non può far così, perché lui ha lavorato con me. Vabbè, ho capito. E non fa un servizio. Sì. E non fa un servizio sbagliato, no? Che devo pagare, non devo pagare. Vabbè. E lui come mai ha lavorato con mia figlia e mia figlia l'ha aiutato nei momenti che c'aveva fame? Si scordano tutto qui. Senti un po', io ti voglio chiedere una cosa, ma... un'altra? Ripassaci Ferrero, Ferrero. Aspetta, ci sono giocatori omosessuali, secondo te, nel calcio? Io non ho incontrati, però pensate sì che mi sa che ci stanno, ma se ci fossero, che farebbero? Disturberebbero un po'? Se ci fossero, disturberebbero un po' lo spogliatoio, secondo te? Uno che si dichiara omosessuale? Ma io dico no, ma io ti voglio bene, no? Mi vuoi bene. Ma tu come cazzo devi in mente fare una domanda così? Ma perché sempre? Perché con la mente più malata? Ma perché io sono fatto così? Perché non c'è nessun giocatore che fa coming out? Possibile che si dichiarano tutti froci? Che ne so? Vivi nel calcio, hai mandato i giocatori dalla Madonna oggi, con non so quelle dove foto che hai fatto nudo, dai, su. Hai mandato i giocatori dalla Madonna oggi. Di Apparenzo che lasciasse perdere la foto che se sta lecca i baffi, non la guardate io più. Io negli spogliatoi li ho visti nel bagno della stazione Termini, le foto tuo nudo, altro che, le hanno scritte. Il numero del cellulare sotto, poi per giunta. Sì, stavo lì, c'era la tua foto lui, che per appuntamenti numero c'era pure il cellulare. Ma allora guarda, che cazzo vai a fare a sti posti? Sei equivoco. Passagli il nostro secondo Ferrero. Te la D'Amico l'ha vista? La D'Amico l'ha vista le foto tue? Quello è meglio che no, perché sennò dopo Buffo si incazza. Ma D'Amico, a me lo sai che io ci ho lavorato insieme un mese. Ma non c'era la lente d'ingrandimento. No, io ci ho lavorato insieme un mese. Ma con chi? Con Giarrusso? No, con la D'Amico, ci ho lavorato insieme un mese l'anno scorso, no? Secondo... Ma davvero? Sì, ecco, ma è a Sky, a fa un programma a Sky. Però non è una cosa così. Tu sei impazzito per sta D'Amico da un anno, però... Ma io sono impazzito per me. Solo per una persona, sono impazzito per impazzisco per le donne della mia vita, ci ho fatto pure un film. No, è impazzito così in televisione, dico naturalmente. Ma a me non è che non sono impazzito di niente, sono solo pazzo di Parenzo, perché adesso mi è emozionato che Vangina Cessi a stare a vedere foto mie. Ci sono. No, ma ti spiego di più, ti dico di più. Ma nei Cessi. Ti spieghi di più a me, dai! Ti dico di più, fratello mio. Nei bagni c'è il tuo numero di telefono pure, di cellulare della stazione Termini. Ca foto tua! Hai visto il mio cellulare, non ti risponde, sono protetto, l'hai detto ma prima. Ti ho provato a chiamare anche dopo aver visto la foto nei bagni della stazione Termini. Ma perché sei fissato con questi bagni della stazione Termini? Te lo dico io, passagli Mercù adesso. Sì, aspetta che te passo Mercù. Te passo Crosa. Parenzo, bravo, bravi, ma adesso lo dovete dire che questo è l'imitatore, ditelo. Ma chi è l'imitatore? Ah sì, quello con cui parlavo lì. Presidente, lo so, era un imitatore, che dobbiamo fare? Noi ci divertiamo un po' ogni tanto con gli imitatori. Signor Parenzo. Ma che Parenzo? Signor Parenzo. Ma chi è? Vuole parlare con Parenzo. Parenzo, parlaci. Signor Parenzo, ma perché va in giro a togliersi le mutande in silenzio? aspetta un attimo, che c'è le mutande, non c'è sta niente da quella parte, c'ho uno che mi chiama. No, non le posso dare il numero di Ferrero, scusi, non posso darle il cellulare. Vada alla stazione Termini di Roma nel bagno, lo trova comunque scritto, chiamare le paste, grazie. Vabbè, Massimo, scusi, ti voglio chiedere un'ultima cosa, dai, poi te lascio. Dimmi. Di apparenzo, che Massimo, fa, minimo devi chiamarlo, minimo perché? Ferrero, no, Massimo, non mi toccate Ferrero, che per me è il numero uno, dai, minimo chiamo, minimo. Minimo, il minimo che posso dirti per i minimo per le dimensioni del pube, le palle che non ci sono, fai minimo, però minimo Ferrero minimo per le dimensioni, minimo, non Massimo. Allora si vede che l'hai viste bene quelle foto, Parenzo, certo, è stato attento. Ti ho detto, sono stato alla stazione Termini in bagno perché ero di fretta per prendere il treno. Ma scusa, davanti, ma scusa, a me c'era la foto del Ferrero col numero del cellulare, ti dico solo questo. Dai, io ce l'ha messa te. Ti piace, io voglio dire una cosa, io devo dire la più bella non è né la D'Amico della televisione italiana del calcio né Michela, né la Calcagno, no, manco la Calcagno, la più bella secondo me, io a mie preferenze tra Paola Ferrari, Paola Ferrari, è ancora Paola Ferrari la più bella. Io tra le tre scelgo Paola Ferrari, che vai, sì, ciao, sì. Ferrari. Sì, e con questa a salutiamo la Ferrari cantando andiamo a 300 all'ora con Parenzo dei Cerchi. Lo faresti? Ti sei eccitato. Senti, all'idea che ci sia la tua foto nei cessi, eh? Ti sei eccitato. Ma sindaco, bravo, di Roma, vogliamo fare sindaco di Roma? Te candidi a sindaco, ma senti, adesso c'è, se voi andate sul web, che c'è sul web? Se voi andate sul web, hanno fatto sti ragazzi, stanno a fare gira così, mi hanno detto, gira una roba di sto genere qua. Che gira? Ah, sì, sì. Qui, Ferrero sì, sindaco di Roma. Ricordi quando hanno fatto la cosa da presidente con, sì, sì, con, come con no. Magalli? Sì, qua, sì, con Magalli. Esce Ferrero sindaco di Roma. La gente mi ama. La gente ti ama. A sto sorcio che c'hai vicino. Ferrero sindaco e Topolino astronauta, dai, su. Dai, a sorcio. Ma dai. Ferrero sindaco e fate, Topolino sulla luna, dai, fatemi fare una domanda seria, però, mamma mia. Dai, su. Allora, ti piace Salvini o no? Radio 24, tutti sulla attenti, Luciani, sì, fa una domanda seria. Oh, faccio una domanda seria. Allora, Salvini può salvare l'Italia? Mazza che domanda, oh. Ma chi è questo Salvini? Ma come, non conosci Salvini, dai. Non conosci Salvini. Quello della Lega. Quello della Lega, ti piace o no? Ruspa. Ti piace o no? Chi? Salvini. No. Non quello della Ruspa. No. Renzi, ti piace? È meglio la Santa De Che. Meglio la Santa De Che? Ma mi fa piacere, mica so Parenzo che vado a Vincenzi, mi fa dire mi piace, no, ma non mi piace. Ti è piaciuta però Renzi, la nuova Vincenzi? Renzi? Eh? Renzi sta a fa bene o male secondo te? Per me Renzi è una persona che se in questo paese, parliamo seriamente, sì, qualcuno facesse lavorare qualcun altro, Renzi potrebbe fare un belle cose, ma sto paese se lo lasciano lavorare, dici, sì, perché ma chi dimmi chi te fa lavorare, e che ne so, Ferrero, Ferrero è una roba ricca, ma chi è sto Ferrero? È schiato nessuno. Allora chi c'è dietro Ferrero? Chi c'è? Renzi, specchietto, se specchia fa, invece fai riforme e fa niente. Salvini mangiò la maglietta, Grillo va a insultare la gente, ma che caso, ma di che stiamo a parlare? Ma c'è nessuno, che ne so, Berlusconi, no, Berlusconi ma soltanto c'è rimasto solo uno. Chi? Il grande D'Agostia. Candidiamo lui e abbiamo risolto tutti i problemi. A proposito, dimmi in 30 secondi la storia del Viperetta, per chi non lo sapesse ancora, l'origine del Viperetta. L'origine del Viperetta è molto semplice. Se andate in libreria, compratevi il libro che l'ho descritta tutta. E la cosa bella che questo libro... Se lo comprate, io non prendo niente. Vabbè, questo lo sappiamo. Dice danno... il Viperetta che dovevo. No, allora fatelo, no, andate a comprare. Vabbè, ma dimmi sto cazzo di Viperetta, da che deriva? Ma chi è sto Viperetta? E sei tu? Allora che devo fare? Dimmi da che deriva sto nome. Deriva da una maldicenza di un signore che mi ha toccato il fondo schiena. Ma veramente? E io che ero ragazzino. Un frocio. Ma si chiamano Froci. Io gli chiamo Froci, c'ho la dispensa. Ma vedi che sempre lì torni, vedi che ti piace proprio. Lo vedi che ti piace. Leggete il libro. Allora, Radio 24, questa è una guerra tra tre fronti. Tra tre froci no, ma guarda, io non so frocio, però so a favore del marino. Allora no, allora gli è parento. Dimmi, ti faccio fotografare nudo. Te un bacio nel mondo del cinema, un bacio a un uomo, l'hai dato o no? No, una volta. No! No. Mai! E non vedo l'ora di darla a te. Ciao, a presto, ciao Massimo. Ciao, ciao, ciao. A tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Viva Ferrero, ciao. E viva la gnocca. Sempre, ciao. Ma chi ha detto che il casteggio non è serietà? E Pulcinella, te lo ricordi, dice casteggiando, casteggiando. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Che cosa volete dirmi? Ditemi, amori miei. Radio 24. La passione si sente.